che NFC. Ringraziamo e salutiamo, e corri, ciao, e lascia Amedeo correre. Da non confondere con NGL invece, che è l'app che ti manda i messaggi anonimi su Instagram. E ultimamente me ne stanno arrivando una caterva. E vabbè, comunque. Non confondiamoci. Corri, lascia correre, monologo sulle contraddizioni dell'essere. Ebbene sì, allora vabbè, chi mi conosce sa che sono sportiva, non ho mai nascosto. Sono 20 anni che corro e tutte le volte che vado a correre mi dico: ma chi me lo fa fare? Però sto correndo. E se mi osservo da fuori mi rendo conto che in quel momento dentro di me abitano due personalità, una che vuole stare sul divano e una che vuole correre. E a quel punto ho provato a cercare quante altre io abitano la mia persona. Il libro è una sorta di monologo, perché comunque quando vai a correre sei da solo, anche se vai a correre con qualcuno c'hai dei grandissimi, certo, momenti di solitudine, nel senso positivo della parola solitudine, quindi per questo monologo. Sulle contraddizioni. Anche perché stai abbastanza zitto quando corri, se no non reggi dopo un po', giusto? E devi avere gran fiato, e se sei un fumatore come sono io, fiato non ne hai così tanto da sprecare. E sulle contraddizioni dell'essere, perché comunque nel momento in cui siamo in due, uno vuole fare una cosa e uno ne vuole fare un'altra, è una contraddizione. Credo di essere ricchissima, come la maggior parte delle persone, di contraddizioni. Ho semplicemente provato a metterle a fuoco. Dico sempre: questo non è un libro sulla corsa, è un libro nella corsa, a correre sono i pensieri. Meraviglioso. Quindi una Alice dice corri e l'altra dice ma lascia correre. Lascia correre invece è, diciamo, la parte finale del titolo ha un altro senso. Molto spesso si dice lascia perdere, no? Oppure lascia correre, che ha lo stesso significato, cioè lascia andare le cose. E molto, credo sia molto importante rendersi conto che la vittoria, e ovviamente parlando di corsa, l'agonismo è parte integrante, la vittoria molto spesso arriva quando lasci correre, cioè lasci andare le cose. Questo era il senso della parte finale del titolo. Grande, bellissimo, bellissimo. E quando è uscito questo libro? Questo libro è uscito quest'estate, ad agosto, luglio, agosto. Ok, sì, sì, sì. Pensavo che fosse uscito una settimana fa, invece siamo di corsa. Siamo sempre di corsa. Siamo sempre, sì, di corsa. Sì, sì. Adesso lo facciamo. Come sta andando? Adesso lo facciamo correre. Lo facciamo correre? Sì, sì, sì. Assolutamente. Mi hai aspetta, no, anzi, prima di correre diamo spazio naturalmente ai nostri ascoltatori, che se ci vogliono messaggiare, io qua sono circondato da una pletora di gnocche, 333 180 94 94, ma non solo, abbiamo anche il nostro famigerato Marco Roma che ci ha mandato un messaggio, ascoltiamolo. Buongiorno, dimmi se questa mattina ti parlo così vuol dire che non uso dolcezza, ma uso qualsiasi cosa per mostrarti quello che penso stamattina. Da Marco Roma, buongiorno! Molto più carico dell'ultima volta. Io non ho capito cosa gli è successo stamattina. Tu hai capito? No. Lo dobbiamo riascoltare. Riascoltiamo un attimo, sentendo. No, però lo sento molto più carico. Anch'io lo sento abbastanza carico, però mi sembrava un po' verso l'incazzato oggi. Un po' verso l'incazzato. Non lo so, Dobbiamo riascoltarlo? Rimetti un altro pezzettino, ti prego, rimetti un altro pezzettino. Omaggio a Marco. Omaggio a Marco Roma, che non ci abbandona. Buongiorno! È normale, dimmi se questa mattina ti parlo così vuol dire che non uso dolcezza, ma uso qualsiasi cosa per mostrarti quello che penso stamattina. Buongiorno Marco, cavoli, insomma, Marco, ma buongiorno anche a te, però dai, su, no, non te la prendi così. Non te la prendete così tanto, la primavera sta per arrivare. Esatto, voi dovete capire che il nostro Marco Roma è la mascotte di Coxo Spaziale, e infatti su tutte le puntate che potete riascoltare su coxspaziale.blogspot.com c'è sempre un messaggino del nostro Marco Roma, molto innamorato sempre. E anche il nostro Gifo non può non messaggiare oggi, mi ha appena scritto la Alice Zannoni, è una gran gnocca. Sappi che anche le altre due non scherzano. Sappi. Comunque. Diciamo a Gifo di leggere il libro, così magari ti scrive qualcosa sul libro anche. Ci fai la recensione del libro, Gifo. Aspettiamo allora. Un vicentino, un vicentino rampante. Te lo dovrei far conoscere lui. Ci sono. C'è. Oh, Gifo, attenzione che c'è. Grande. Gli diamo appuntamento alla prossima maratona? A proposito di questo, l'occasione per presentare il libro qui è perfetta, perché domenica si correrà la Bologna Marathon, alla quale sull'onda dell'entusiasmo mi sono iscritta alla mezza maratona. Non garantisco di arrivare in fondo, non garantisco neanche di partecipare, perché dopo averne appena fatta dipende una dipende dal sabato, cioè dal sabato precedente, no, dipende da quanto la fatica, dopo averla conosciuta il mese scorso, la fatica dei 21, quanto grande è, perché la cosa incredibile è che la testa può modificare qualsiasi tipo di grandezza, quindi qualcosa di piccolo può diventare enorme e viceversa, quindi se la testa gira bene domenica arriviamo in fondo e portiamo a casa questi 21. Vediamo, ve lo saprò dire. Esatto, se la fai e arrivi ai 21 ti aspettiamo di nuovo in radio per raccontarci. Fatta. Grandissimo. Questa è una molla in più per farcela poi, perché gli escamotage per ingannare la mente, la fatica, sono magari nelle cose più banali, ma li devi trovare, se no non si va avanti. Quindi adesso tutti coloro che verranno alla Bologna Marathon, diciamo di sostenere la nostra grande Alice Zannoni a finire. Sai già il tuo numero di matricola? No, me lo danno giovedì. Ah, ok, per cui non possiamo neanche dire, cioè non possiamo neanche avere degli stalker. No, tipo, ma vi informo. Scrivete a coxspaziale@gmail.com e noi vi daremo il numero, esatto, di Alice Zannoni. Però cioè, non di matricola, di pettorale, cioè aspetta. Il numero di pettorale, certo, e non il numero di telefono, naturalmente. Il numero di telefono è sempre questo, 333-180-94-94. Detto questo, perché abbiamo anche Azzurra Immediato e Anna Rosati qui con noi? Comunque adoro. È vero, Alice Azzurra e Anna. Veramente cercasi quello che volete, sì. Però cercasi. fantastico. Chi risponde delle due? Perché siamo qua? Perché appunto, come diceva poc'anzi l'Alice, bisogna avere una meta quando si corre, metaforicamente e non. E molto spesso, proprio quando si corre, si dice non guardarti intorno, fissa la meta, immagina il traguardo. E noi siamo qua perché proprio per parlare di immagine abbiamo lanciato un concorso insieme con l'ILT, la Lega per la prevenzione dei tumori, la sede di Bologna, dove in realtà è nata 100 anni fa. E abbiamo lanciato questo concorso ideato da Anna Rosati, che è proprio la prima edizione del premio LILT per la fotografia contemporanea. Wow. È un concorso che ha già l'open call in corso, assolutamente gratuita. La potete trovare ovunque sui nostri social, che ormai stiamo spammando più non posso, tra un po' ci denunciano proprio basta, i fotografi basta, però naturalmente il sito ufficiale è quello di LILT Bologna, legatumoribologna.it, esatto, dalla regia ci dicono così, dove appunto c'è tutta la pagina dedicata dove è possibile trovare, oltre naturalmente alla parte tecnica, quindi regolamenti, scheda di partecipazione eccetera, un pochino come quella che è la sua storia, quindi dalle parole del professor Francesco Rivelli, che è il presidente di LILT Bologna, che è però un amante dell'arte e della cultura in maniera sconfinata, certo, fino alla presentazione della giuria, di cui ci parla invece l'ideatrice Anna Rosati. Bene, abbiamo avuto l'onore di avere fra noi dei giurati veramente, come possiamo definirli? Straordinari. Abbiamo come presidente di giuria Shoba, che ha vinto la bellezza di due World Press, per cui insomma, come diciamo, non è il primo arrivato, diciamo. No, non è la prima arrivata, e l'abbiamo appunto contattata per chiederle se, insomma, se questa cosa le piaceva, e lei insomma è stata entusiasta immediatamente, ha detto sì per una causa così bella e così importante come l'ILT, poi anche il nome del professor Rivelli, che comunque gira, perché la LILT è conosciuta in tutta l'Italia perché ha sedi in tutte le città italiane, per cui insomma è un'associazione che ha una grande stima delle persone, perché chiaramente la prevenzione è una delle cose più importanti, non soltanto il fatto di di farlo girare, sì, la prevenzione, diciamo, anche nelle scuole viene portata per capire se parti da lì, dopo poi chiaramente tutto il resto è molto più semplice, per cui anche non so, fanno corsi per antifumo, fanno corsi per varie cose. La LILT non è la maratona, dove tra l'altro la LILT molto spesso è presente. Non come è solamente, quindi, diciamo, un discorso tumorale, ma anche un discorso di prevenzione per la salute. Per cui questo connubio tra arte e scienza ha creato intanto nel centenario questa volontà del professor Rivelli di creare appunto un libro che parlasse del centenario attraverso 10 testimoni che hanno raccontato la loro vicinanza all'arte durante il percorso di cura, per cui queste due cose insieme, certo, sono state, diciamo, una molla di ulteriore cura anche dell'anima. Libro cui, che è già edito? Sì, già uscito. Sì, è stato, parlava dei 100 anni della LILT, si trova presso la sede della LILT, se uno lo vuole prendere, certo, esiste, certo, una copia che aspetta tutti voi, sì, perché è stato fatto proprio con una volontà appunto di unire arte e scienza. Da questo è scaturito poi il discorso di pensare a un premio di fotografia, perché la fotografia è una specie, insomma, di esperanto, una lingua che ormai tutti conosciamo, certo, chi più di noi ormai non vive attaccato a immagini, cose, certo, eccetera, per cui da lì abbiamo costruito questo premio. Però vorrei che tu continuassi sui giurati, perché ce ne sono alcuni, sì, che tu conosci molto bene e allora mi piacerebbe che tu li presentassi. Sì, abbiamo deciso di scegliere una giuria che fosse naturalmente legata al mondo della fotografia, ma non soltanto, per cui insieme a Scioba, che è presidente, abbiamo Benedetta Donato, naturalmente una curatrice, molti nel mondo della fotografia è conosciutissima, ma non soltanto, che è una curatrice e una critica di fotografia. Poi abbiamo Loretta Secchi, che è una docente dell'Università di Bologna, e lei in realtà si occupa, è responsabile curatrice del Museo Anteros di Bologna dell'Istituto Cavazza, ma soprattutto lei si occupa di tutta quella parte che riguarda la percezione dell'immagine, quindi poi si lavora anche attraverso l'immagine, l'intelligenza emotiva e quella percettiva, quindi la fotografia anche indagata, anche la semiotica, sì, ma non soltanto, proprio a livello sensoriale. Ok. Poi si cambia ancora disciplina e troviamo Massimo Mattioli, che Stefano conosce molto bene, ed è il vice direttore di Arts Life, ma è anche un giornalista, saggista e storico e critico d'arte. E poi insomma questa giuria termina con Enrico Stefanelli, il direttore e ideatore del Photolux Festival di Lucca, per cui anche la giuria molto composita raccoglie tutte quelle che sono le suggestioni del mondo della fotografia contemporanea, ma secondo delle prospettive diverse. E questo non è un caso, perché il tema che è stato scelto all'inizio, quando si è deciso di lanciare questo concorso con il professor Rivelli, è stato proprio quello della metamorfosi, un tema sicuramente complesso, che nel premio sarà analizzato e presentato con progetti fotografici e non foto singola, ad esempio, sia per una questione, insomma, concettuale, ma anche proprio per una questione di narrazione, certo, e il fatto della metamorfosi diventa tangente sia per quello che riguarda naturalmente il mondo dell'oncologia, ma non soltanto. una cosa che noi nella call abbiamo chiesto a tutti i fotografi professionisti ma anche emergenti: non c'è limite alcuno se non quello di avere la nazionalità italiana, ma per questa prima edizione, poi vediamo cosa succederà, è quella appunto di raccontare questo tema non focalizzando la ricerca appunto sulla malattia, ma in chiave positiva o comunque in chiave assolutamente soggettiva, ma non stiamo cercando assolutamente di spettacolarizzare il dramma, tutt'altro. Certo. Faccio un passo indietro: lo scorso anno per il centenario, insieme con il libro, abbiamo realizzato, anzi il videomaker e artista Anwar Arebi ha realizzato un cortometraggio, un'opera video con 10 testimonial delle donne che hanno attraversato la malattia e grazie all'arte ognuna a suo modo è riuscita appunto in una sorta già di pre-metamorfosi a raggiungere uno stadio naturalmente successivo, naturalmente positivo, perché era, per fortuna erano con noi a raccontarlo, e quindi questa giuria ci dà quella spinta, quella corsa a sottolineare quello che poi è il tema generale della LILT, il claim prevenire è vivere. Certo. It was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. It was pay, pay, pay, pay, pay. Never single dime that good Lord give me. I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that. Count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit the wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Yeah, one day will the sky might fall. Attenzione che vi alza il microfono senza che ve ne accorgete. Per fortuna stavamo dicendo cose belle. Non vi sentivo io da qua, infatti vi alzavo il microfono proprio per sentirvi. E dunque dobbiamo correre, correre, correre, perché la scadenza è il 15 maggio. Esatto, e tra l'altro okay, noi ci lascia abbastanza tempo. Sì, anche perché i progetti non devono essere inediti, quindi abbiamo fatto un'ulteriore scelta, quella appunto di non limitare soltanto a progetti inediti, ma anche a progetti in essere, magari che hanno bisogno di quello scatto per diventare qualcosa di sarà una mostra, una pubblicazione, insomma saranno tanti gli step. E tra l'altro ci accompagnano in questa corsa visiva rivista segno online come media partner, che quindi salutiamo il direttore Roberto Sala, e Chiara Serri e CS Art come ufficio stampa. Quindi diciamo che per iniziare noi ci siamo affidati al meglio che che ci poteva essere, quindi tutte persone professionalmente incredibili e che hanno creduto fermamente in questo progetto. Il mitico Roberto Sala, che chissà dov'è adesso, in quale parte d'Europa, in quale parte del mondo. quindi basta avere 18 anni d'età ne puoi avere fino a macchina futura, ne puoi avere fino a, non c'è una data, non c'è una carina questa cosa, una fine. Perché di solito è artisti entro i 35 anni, no, o altre cose, no. E non no, e le fotografie possono essere scattate con qualsiasi medium, cioè non siamo lì a dire no per forza. A noi interessa l'immagine in quanto concetto, quindi il racconto, usa e getta, la polaroid, cioè il banco ottico, assolutamente, sì, ragazzi, ognuno con il proprio linguaggio. L'importanza è il progetto, il progetto che abbia un, insomma, un livello concettuale anche interessante, che certo, venga insomma raccontata la metamorfosi in una maniera, insomma, ci dovete stupire, insomma. Un vincitore vincitrice, giusto? Ci saranno, sì, vincitore di entrambe le categorie, quindi professional e emergenti, e poi insomma le vittorie avranno dei premi insomma interessanti e differenti, e poi ci sarà comunque una mostra il prossimo anno e una pubblicazione che noi non definiremmo soltanto catalogo, perché proprio sull'onda di quello che è successo lo scorso anno sarà in realtà un volume editoriale in cui arte, scienza, psiche e fotografia riusciranno a trovare una sorta di filo conduttore per raggiungere, wow, questo bellissimo traguardo, no? Come diceva prima l'Alice, per cui insomma bravissimo, il traguardo che ci siamo portati avanti è importante, quindi adesso mancano già le fotografie, che aspettiamo anche te con la corsa, che a questo punto vedi siamo tutti in corsa. Lei intanto avrà smesso chi di fumare. Guarda, sarebbe quello. La premiazione è il 6 di dicembre, quindi hai tempo. Grande. Bello, e i progetti fotografici, numero illimitato di scatti. No. Beh, okay. Minimo di 8, povera Giulia, dai, falli respirare. 100, è vero. Minimo di 8, massimo di 10. Ok, okay. Benissimo, sì, benissimo. Ah, più o meno 8, un progetto. 10. Ci brave, brave. Mm. Sì, grazie. Poi vi terremo aggiornati, naturalmente. No, porteremo qua i vincitori e le vincitrici. Chissà. Devo mandare il link ai miei amici dell'Associazione Fotografi di Calderara di Reno. Sì, assolutamente. Anzi, ricordiamo che lo troveranno su coxospaziale.blogspot.com. Esatto. Oppure sui tuoi canali social. Sui miei canali social? No, su coxospaziale.blogspot.com. Okay, no, anche perché i miei canali social non stanno funzionando molto bene. Cioè, ho ricevuto due telefonate in questo momento di gente che non sa che sono in radio a fare la diretta. Per cui, devi metterti il risponditore automatico come va la nostra amica Roberta Giallo. Solo dalle 8 alle 9 di lunedì sera. Esatto. Ci potrebbe stare. At the moment I'm on the radio. Tune in a 103.1 FM. E sono le 20:29 ed è ora delle nostre pubblicità delle 20:30. Così, un minuto in anticipo. Anzi. Coxospaziale. Ciao, siamo le Linkfingers e questo è Coxospaziale. La tua salute per noi. Parola di prova. Coxospaziale. Siamo già tornati. E dunque, visto che appunto vi ho preso tutti di vi ho preso tutti di sprovvista, grazie, non mi veniva sprovvista, allora parto così. Ancora l'angolo della menzione. Ovvero il 1 marzo alle 18:30 String Figures, incontro con Isabella Pinto a cura di Lo Spazio Letterario presso Parsec. Il quinto incontro di String Figures sarà una discussione a partire dal libro di Isabella Pinto, Elena Ferrante, Poetiche e politiche della soggettività, Mimesi Edizioni del 2020, con Isabella Pinto, ricercatrice transdisciplinare indipendente, Irene Russo, La Falla del Cassero, e Graziana Marsigliano, non riesco a pronunciarlo, lei, String Figures, con le letture di Lila Esposito, attrice, showgirls e filosofa. Queste a Parsec in via del Porto 48C, trovate tutto su parsecbologna.com. E questo è il 1 marzo. Che giorno è il 1 marzo? Domani? Dopodomani? Non dopodomani. Dopodomani alle 18:30. Poi cosa abbiamo? Giovedì invece? 2 marzo alle ore 16, una nuova iniziativa promossa da xart.net, che consiste in visite guidate e gallerie d'arte contemporanea, con un occhio di riguardo a chi non le ha mai visitate. La visita a cura di Filippo Guicciardi sarà a F Gallery, Labs Gallery, Studio La Linea Verticale e qui c'è il link per le prenotazioni. Ecco, qui. Che troverete tu appunto domani su coxospaziale.blogspot.com oppure andate su xart.net. Il 2 marzo, che è lo stesso giorno, sempre giovedì alle 19, abbiamo Xing che presenta a Bologna per la prima volta in Italia il musicista canadese Chick White con Fractured Utterance, difficilissimo da pronunciare, una sound performance per scacciapensieri, voce, flauto nasale, armonica a bocca e microfoni a contatto. L'appuntamento è un nuovo hall di Xing. Il meeting point è la loggia del Palazzo della Mercanzia, ma la capienza è ridotta, per cui la prenotazione è obbligatoria a info@xing.it e naturalmente trovate tutto sempre su www.xing.it. Ti mollo la palla più grossa, che sono tutti gli incontri in Accademia che succedono lunedì prossimo. Lunedì infatti 6 marzo alle ore 16.30, incontri in Accademia. A partire dal 6 marzo 2023, nell'ambito di Boom, Crescere nei Libri, il Festival dei Libri e dell'Illustrazione per l'Infanzia organizzato in occasione della Bologna Children's Book Fair. L'Accademia di Belle Arti di Bologna promuove il programma Ababo Boom, realizzato in collaborazione con Amelin, Canicola, Alliance Française e Istituto di Cultura Germanica. Nato in Iran con il primo appuntamento con Majid Bita, moderano Enrico Fornaroli e Gianluca Costantini. In Aula Magna, all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, alle 18, inaugurano tre mostre sempre in occasione di Boom. E queste tre mostre sono Going Places, con le studentesse e gli studenti del biennio di linguaggi del fumetto e illustrazione per l'editoria, a cura di Andrea Bruno, Mrs. Orange and Mr. Blue, a cura di Sara Colaone, con gli studenti e le studentesse del biennio di illustrazione per editoria, e Nato in Iran, mostra di Majid Bita, a cura di Canicola PS. E tutto quanto è nel corridoio di Ala Collamarini all'Accademia di Belle Arti di Bologna, in via Belle Arti 54. Naturalmente trovate tutto su ababo.it. Ed eccoci qua, abbiamo finito. Siamo con le nostre magnifiche ospiti Alice, Azzurra e Anna, e fuori onda mi nasceva un po' questo desiderio di farvi una domanda che entrambe voi come siete tre persone, però Alice con la corsa e voi con il progetto del premio fotografico state un po' portando in radio stasera, che è quello di utilizzare o di vivere o di costruire l'arte come uno strumento, non vorrei dire terapeutico, però una sorta di maniera di per stare bene, no? O per fare bene, o per sentire bene. E in che modo allora questo strumento non strumentalizzabile che è l'arte può appunto far vivere quest'onda di benessere, no? Cioè in che modo un premio di fotografia in associazione con la Lega Italiana Tumori e la corsa, che quindi ha stimolato anche il libro, o il libro ha stimolato la corsa, qua è un po' la domanda del secolo, no? E ci riporta in questa dinamica di bien-être, mi verrebbe da dire. Guarda, io penso che la corsa sia solo un mezzo per me e per probabilmente per tutti quelli che corrono per arrivare a, e l'arrivare a non è un traguardo, è avere consapevolezza su se stessi, poi, no? Non è facile, dicevo prima, scrivere un libro dove in realtà, se volessi descrivere la corsa in sé per sé, non è altro che mettere giù il passo velocemente, boh, abbiamo chiuso, l'ho descritta, no? Quindi non è facile ricamare è usato in termini con un'accezione positiva su un qualcosa che in realtà è molto semplice. Questo a banale, possiamo dire, semplicità serve per andare in profondità, e se ci arrivi ti dà la consapevolezza, la consapevolezza con cui tu guardi te stesso, e di conseguenza, a proposito di metamorfosi, riesci a guardare il mondo diversamente. E questo per me per questo definisco la corsa un mezzo. Volendo fare un paragone, oppure creare un ponte con il progetto del concorso fotografico, nuovamente torno alla parola consapevolezza, perché ce l'hanno gli artisti che dovranno affrontare una tematica, e ce l'avranno i fruitori nel momento in cui andranno a vedere la mostra o i progetti. e credo che questa in parte sia una delle chiavi, delle funzioni principali dell'arte, che è quello di dare consapevolezza o, come dico sempre quando faccio le lezioni o alle persone che incontro, l'arte è mettere un paio di occhiali. Le lezioni di cosa? Le lezioni di arte. Eh no, perché in effetti, cioè, non ti abbiamo presentato per niente come se ti conoscessero tutti, però in effetti sì, sono sempre nell'ambito, sei una critica, curatrice, esatto, e docente di arte, giusto? Sì, e quando faccio i corsi anche le persone che magari di arte non sanno niente, hanno chissà quale aspettativa, io dico semplicemente è come entrare da un ottico e scegliere un paio di occhiali, ti permette di vedere la realtà, che poi è sempre la stessa, in maniera più o meno sfocata, più o meno diretta. Questa è semplicemente consapevolezza ed è quello che stanno facendo le ragazze con questo bellissimo progetto, ed è quello di cui forse avremo sempre tutti bisogno. Più occhiali abbiamo, meglio è, perché abbiamo più possibilità di intercettare il mondo nelle sue sfaccettature, che poi sono le stesse migliaia di sfaccettature che io riconosco poi in me stessa. Per gli ascoltatori attenti di Coxo Spaziale, ricordiamo che è rivenuta a presentare il libro L'arte contemporanea spiegata a mia nonna. Certo, fantastico. Come sta la nonna? Devo dire che si è rotta un femore il mese scorso e quindi correndo. Non correndo, avrebbe voluto. Voleva fare la maratona con te. Sarebbe stata in corsa anche lei, ma insomma non sta benissimo e ricevo tanti messaggi. Come si chiama la nonna? Zita. Allora salutiamo Zita, le dedichiamo un salutone. Tanti auguri, nonna. E anzi, le dedichiamo Run Baby Run di Sheryl Crow. Born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And a mama believed every man could be free. So her mama got high. Qualcosa mi dice che le cose più interessanti le state sempre dicendo offline, capito? Io sono dall'altra parte del vetro, vi vedo ridere e scherzare e non sento cosa dite. Ormai perché sei spenta? Ormai tu? Eccomi, ormai ad Alice tocca correre. Quindi lunedì 6, se vuoi, puoi dedicare delle canzoni. Che abbiamo lunedì 6? Lunedì 6 abbiamo Chiara Pergola. Chiara che viene Pergola. Con non mi ricordo più. Tra le altre cose, con un progetto sempre di atletico, fisico, cose così. Non svelo di più. Però insomma, domenica 5 ci connettiamo a tutti. Io penso che a tutti quelli che correranno e che si iscriveranno a correre. Fra l'altro ci sono altri progetti tipo la Run Tune Up. Sì, 5 km. 5 km. Cioè non devi per forza fare 21, puoi farne anche 5, no? 5? 5 potrei farne anch'io. Dai, 5. Allora, dai. 5. Cosa si vince? La gloria. C'erano delle citazioni di William Blake molto belle, no, introduzione infatti, dei capitoli del libro di Corri, lascia correre di Alice, che sono molto stimolanti per correre e poi ripetertele. Chi ha un volto leggicene senza una. Un raggio di luce non diventerà mai stella. Wow. Capitolo dedicato alla solitudine. Perché sei un'ombra, sei qualcosa davanti, persone o soprattutto nella metafora ti si getta la sua ombra, quindi non sei da solo, e per essere in solitudine con te stesso devi avere, sempre metaforicamente parlando, il sole contro. E allora una vita ombreggiata è una vita piatta o una vita piena di volume? E quindi qui ci si interroga sul senso della solitudine, il suo valore, disvalore, per me è un valore, quella cercata, e quale significato può avere questo tratteggio, ripeto sempre certo, metaforicamente parlando, nella vita. Wow. Piace quando faccio il DJ. Sì, ti giuro, stavo per dirlo, lo volevo dire anche alle ragazze, ma poi me lo sono goduta nella solitudine del mio silenzio. Nella mia resa di fronte alla possibilità di una boccata piena di sigaretta immediata, ciò non vale per la vigilanza critica a cui mi sottopone il giudice che è in me. Sono sincera, temo che fumare sia il desiderio di giocare con la morte, di sentirsi invincibili e immortali. Io sono riuscito a smettere di fumare nel 2004 e quando ho letto questo mi è venuta una gran voglia di fumare di nuovo. Che è terribile, scusa, un libro sulla cosa che ti fa venire voglia di fumare. Io ho smesso un anno fa. Ah, grande. Poi siete andati tutti a correre, però. Siamo andati. Ragazzi, vi invidio perché questo è un traguardo che non riesco a raggiungere, tanto che mi assillo da dedicarvi un capitolo, che è il capitolo Corro per fumare, grande, che è quello dedicato al vizio. A proposito di contraddizioni, siamo fatti di vizi e virtù. E purtroppo approfondisco questo lato oscuro di me che non ha senso, perché sono conscia che fa male, poi lo ricordo che i pacchetti ti scrivono, no, tutto quello che fa, invecchia la pelle, fertilità e quant'altro, ma nonostante questo sono cieca di fronte alle conseguenze, e quindi uno indaga il motivo di questo farsi male, no? Di respirare morte involontariamente. E allora devi passare dalla lift per fare un corso antitabagismo. È un segnale che questa sera infatti siamo qua. Ci sarò. E l'idea di questo premio invece è... come ti è venuta, Anna? Ma come ti dicevo, tu sei fotografa, io sono fotografa e fai anche altri corsi, no? Io sono fotografa e sono anche graphic designer, e per l'ILT appunto l'anno scorso ho progettato questo libro sul centenario, e dove appunto abbiamo raccolto le varie tappe che ha, storiche dell'ILT. E a parte questo, diciamo che su quest'onda di questo incontro tra arte e scienza, per proseguirlo ho pensato come fotografa di proporre un premio di fotografia. Premio di fotografia dove si potesse appunto trovare un bacino di persone più ampio, perché la fotografia, come insomma in questi ultimi anni, è diventata veramente una sorta di nuovo linguaggio e che unisce tantissime persone, età diverse eccetera, per cui questo poteva essere uno stimolo anche per far incontrare la LILT a persone che magari non la conoscono, perché è stato così un'idea che mi è venuta, poi chiaramente in collaborazione con Azzurro Immediato, che come storica dell'arte ha seguito anche tutta la parte diciamo redazionale del libro, e insomma abbiamo pensato che questa poteva essere una buona idea per un'associazione che si occupa di questo tipo di appunto, anche perché parlando adesso con lei, che il fumo, questa, cioè sono anche argomenti antipatici se uno vuole, perché magari pensa anche la prevenzione, ma non voglio vedere, non voglio sapere. Questo sì, chiudere gli quando occhi, mi dicevano smetti, me ne fumavo 5 per rabbia. Questo chiudere gli occhi invece noi li vogliamo far aprire anche attraverso la fotografia, che comunque prendiamo, lei prende gli occhiali, noi prendiamo le macchine fotografiche e qua ci mettiamo davanti a una nuova visione anche una nuova visione di noi stessi, andare a cercare in questa metamorfosi un significato anche su quello che può essere, diciamo, il cambiamento, perché il cambiamento in meglio, cioè anche smettere di fumare un cambiamento in meglio, cioè è tutta una, cioè adesso io non voglio fare quella che dà, certo, i consigli medici, per carità di Dio, anch'io, certo, ho smesso di fumare, fumavo anch'io, e tutti siamo stati dei fumatori, per cui so benissimo anche la difficoltà che si può avere nel pensare di interrompere. Prima di smettere di fumare stavo meglio, ma perché erano 20 anni fa e avevo 20 anni in meno. Comunque non è semplice, non è semplice, però in tutti i modi diciamo che questa idea dell'avvicinare persone di età diverse, tutti però uniti dalla stessa passione per la fotografia, poteva essere un bel dialogo, certo, bel dialogo fra l'arte, la scienza, la prevenzione, e diciamo che la cosa, appunto, sì, Hilt dice prevenire e vivere, questa è una bella, è una, in effetti, una frase. Una delle cose che io apprezzo di più dell'arte contemporanea è proprio questa transgenerazionalità, il, esatto, poter parlare dello stesso linguaggio, sì, in generazioni, sì, diverse. Sì, sì. Mi approfitto per salutare, sì, Elio Marcheggiani, che ha compiuto da poco 94 anni. Grande. Stamattina sono andato a trovare, siamo appunto amichetti come se avessimo la stessa età. Fantastico, fantastico, ed è anche affascinante questa cosa di pensare o attraversare o vivere l'arte non come una cosa da contemplare, quindi non come una cosa, diciamo, in un museo, in un libro, in una storia passata, ma come una cosa da utilizzare, come una cosa da, no? C'era un vecchio detto che diceva: qual è la differenza tra un'opera d'arte e un altro oggetto? Il fatto che l'opera d'arte non la potessi utilizzare, ma il fare l'opera d'arte, no? Quel percorso di creazione, progettualità, è realizzato attraverso una rete di dialoghi, di visioni, di sguardi, incredibile, no? E quella di proporre dei premi è proprio quello di proporre un po' un traguardo, un obiettivo da raggiungere, per andare ad avere un po' questa scusa di attraversare mondi, modi e visioni che, insomma, magari non attraverseresti, no? È la prima edizione e di tante altre, no? Ci auguriamo, ce di questo, auguriamo di questo premio. Sì, ce l'auguriamo, anche perché, appunto, un pochino per tornare anche su quello che si è detto, il fatto che attraverso l'arte poi si raggiungano delle consapevolezze del proprio vivere, del quotidiano, perché comunque se noi ci rifacciamo anche soltanto a quella che oggi viene definita arte preistorica, ma in realtà era un modo di comunicare, il segno, l'immagine sono arrivati ben prima della parola. Sì. Per cui poi, avanzando nei millenni, se uno pensa al detto, no, mens sana in corpore sano, e qui è il punto, e in realtà è proprio perché l'arte non è una questione di aiutare a pensare, ma è un modo attraverso cui comprendere la realtà e il modo di vivere, attraverso quello che io dico sempre, lo sguardo principe degli artisti, che sono le persone tra le più fortunate che riescono a vedere quello che tanti di noi non riescono a guardare, obnubilati da altri filtri, no? E per cui a tutti fine... i mariti e le mogli degli artisti che invece ce l'hanno con loro proprio perché vedono troppe cose. Scusa, però quando non fanno da ghostwriter o eccetera eccetera. Sì, no, insomma, poi lì si entra nella fase dell'egocentrismo, allora dopo lì è assurdo, però però sicuramente noi ci auguriamo che, insomma, con questo premio venga data la possibilità, quindi non solo naturalmente a fotografi, artisti già affermati che noi accoglieremo con molta gioia, ma soprattutto anche a chi probabilmente non ha il coraggio, no, di affrontare altri premi di quelli blasonatissimi, che per fortuna, insomma, ce ne sono tanti, perché forse questo premio ragiona attraverso la fotografia ma in termini un po' diversi, e quindi mette a nudo anche quelle fragilità che molto spesso si ha timore di menzionare, ma anche proprio di menzionare a se stessi. Quindi questo premio diventerà anche un modo per i giovani, soprattutto gli emergenti, di mettersi un pochino allo specchio e poi restituire attraverso la fotografia, quindi questi progetti, un tipo di visione del genere. Quindi noi poi vi faremo sapere anche quando ci sarà la mostra, che sarà nel il prossimo anno, eccetera. Quindi è un percorso lungo come quello della Metamorfosi, e che però ci auguriamo, insomma, che faccia gemmare qualcosa di incredibile. Bella questa cosa anche del premio, diciamo, non riservato soltanto ad artisti established, ma anche a persone che prendono sul serio un percorso artistico. Beh, che può essere quello della dire, progettualità. La parola open call vuol dire open. Ma molti però dicono se se open call, esatto, però under 35 deve avere il curriculum eccetera, e invece no, qua no, hai fino al 15 maggio per cimentarti e provarci, insomma. Anche io sono con un cellulare, quindi assolutamente basta la voglia, ragazzi. Voi avete qua in radio una delle artiste che ha fatto la prima mostra istituzionale con foto da solo cellulare. Fantastica, si può ancora vedere? Sì, no, perché è una mostra del 2016, quando tutti ci avevano detto no, assolutamente non si può fare, e invece ne abbiamo trovato un direttore museale, che è Ferdinando Creta del Museo Arcos di Benevento, più folle di noi, grande da chiarire, che ha detto non la vuole fare nessuno, la facciamo da noi, e quindi yes, abbiamo fatto la prima mostra solo di iPhoneography, e quindi parliamo 17 sembra ieri, ma non no, lo è, in effetti sono passati 6 anni. Sì, già. Già, quindi sì, assolutamente siamo aperti, sì. Anche la giuria naturalmente è d'accordo con noi, e quindi non interessa quale. Ci interessa che stupire con qualche concetto e con qualche bellissimo progetto, e per cui nessun limite di età, tranne i 18 anni chiaramente, ma una vabbè, questione legale. Quello, vabbè, sì. Però per il resto. In più l'iscrizione è gratuita, assolutamente. Ecco, questo non osavo chiederlo, ma sottolineiamolo. Sì. Ah, no, sottolineiamolo, anche perché altrimenti non sareste qui a Coxo Spaziale. Esatto. Cui, su questo io non transigo assolutamente. No, perché appunto, perché è un modo per aiutare l'ILT e per aiutare la fotografia. Quindi, insomma, è giusto che sia così. Però, è vero, lo sottolineiamo. Sì. Giusto, no, sottolinearlo. Sono convinto che chi ha bisogno di chiedere dei soldi per partecipare a un concorso non è abbastanza bravo per fare il fundraising per organizzare il concorso, dunque non dovrebbe organizzare il concorso. O comunque voi che organizzate concorsi e vi fate pagare, smettetela. Se volete essere invitati a Coxo Spaziale, smettetela di chiedere dei soldi. Esattamente. Bene, dai, c'è che qualcos'altro che Alice, Azzurra o Anna volete avete 30 secondi di tempo per seguite l'Alice, correte con lei, se riuscite a prenderla, perché e in generale seguite l'arte, seguite la cultura, perché mi sembra che qua stasera stiamo dicendo provate un pochino un tutto questo. Esatto. Credeteci. Grazie mille a Alice Zannoni, Azzurra Immediato e a Anna Rosati, grazie. Ho spento il file e non me lo ricordavo più. Io come al solito, ma io ti perdono, ma tu mi perdoni, infatti. No, ma lo sapevo, infatti. Adesso ti devo seguire su Instagram, così dopo. No, non mi dimenticherò. E io come al solito ero Mia Daschio su PA, e io ero Stefano W. Pasquini, e questo era Coxo Spaziale, e come al solito vi salutiamo con le fantastiche parole del nostro direttore, che fra l'altro stamattina non sono riuscito ad ascoltarlo per sentire se era contento della vittoria della Schlein oppure no. Comunque lui imperterrito ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla, che è naturalmente non poteva non essere il nostro fantastico Luri con Run. Grazie, ci sentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 8 alle 9, sempre sui 103.1 di Radio Città Fusico. We're gonna find that you gotta run, run, run, run, run. Take a drag or two. Run, run, run, run, run. Gypsy death on you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell a soul, she wasn't high, didn't know, think she could buy it. She would run, run, run, run, run, take the track of two. Run, run, run, run, run, gypsy death in you. Tell you what to do. Had a golden nose, hobnail boots, wrapped around her toes. When she turned blue, all the angels screamed. They didn't know, they couldn't make her sing. She had a run, run, run, run, run, take a dagger too. Run, run, run, run, run, run, run, gypsy death in you. Tell you what to do.